stelle, milioni su nel cielo, illuminano le notti dei nostri giorni bui. Come te, gli amori di una notte brillano su tutto, passando in fretta poi. Credi, amore mio, credi, come te tu per me non sei, ma una stella che solo per me per sempre brilla, brilla senza fine, brilla lucente come tante altre, ma per me, ma nelle notti dei miei giorni mi indichi la strada per non perdermi mai. Credi,